La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al rapporto fra il populismo e le istituzioni democratiche. Ospite ai nostri microfoni Sara Gentile, docente di scienza politica all'Università di Catania, autrice del volume Populismo e istituzioni, la presidenza Sarkozy. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato a due personaggi della storia americana, il banchiere J.P. Morgan e l'inventore Thomas Edison. Il loro incontro ha dato il via alla rivoluzione della luce elettrica. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. L'emergere dei populismi nell'Europa degli anni Ottanta si situa in uno scenario sociopolitico particolare che si può sinteticamente definire come crisi della modernità. È la tesi di fondo che ispira l'ultimo libro di Sara Gentile, docente di scienza politica e analisi del linguaggio politico all'Università di Catania, dal titolo Populismo e istituzioni, la presidenza Sarkozy, tra breve in libreria per le edizioni di Franco Angeli. In sostanza il populismo non sarebbe altro che una delle conseguenze della crisi frontale con la quale si stanno misurando le democrazie contemporanee, alle prese con problemi e contraddizioni che si manifestano a vari livelli, da quello economico a quello politico. In tale contesto si sviluppano vari movimenti e partiti populisti, con tratti simili e specificità legate ai diversi contesti nazionali. L'esempio francese del Front National di Jean-Marie Le Pen è un caso emblematico per importanza, ma anche per consistenza e durata. Ma adesso si affiancano quello italiano, quello austriaco, olandese, finlandese, belga e anche altri esempi. Il dilagare nelle democrazie occidentali di movimenti e partiti populisti, alcuni dei quali diventano forze di governo o acquistano consistente rappresentanza parlamentare, inducono ad interrogarsi sul rapporto fra il populismo e le istituzioni democratiche, ossia sul nesso fra il modello di democrazia rappresentativa consolidatosi nel corso degli ultimi 100 anni e una concezione della democrazia diretta, evocata dai leader populisti con un richiamo fortemente demagogico al popolo, riproposto come unico e sicuro protagonista del processo democratico. La radicalità del discorso populista, che postula spesso una forma di democrazia dai tratti plebiscitari, si esprime nella critica feroce al sistema della rappresentanza che priverebbe il popolo della sua sovranità e nella riaffermazione demagogica e vaga, ma formalmente ineccepibile, che il potere sovrano appartiene al popolo e che esso solo può esercitarlo in un sistema che si possa definire democratico. Nell'introduzione del libro di Sara Gentile si legge che già Jean-Jacques Rousseau nel Contrat social affermava che non occorrono rappresentanti del popolo, ma commissari sottoposti alla volontà del popolo con il compito di eseguirla, e precisava a proposito del sistema parlamentare inglese che il popolo è veramente libero nel momento in cui elegge coloro che decideranno per lui, ritornando schiavo subito dopo aver fatto ciò. Sulla sua scia si posero il giacobino Robespierre e l'esperienza dei giacobini al potere, fondata sull'affermazione della sovranità del popolo attraverso uno stretto controllo dei suoi commissari e contraria, almeno formalmente, all'istituto della rappresentanza. Tutto ciò ha prodotto uno dei paradossi che animano il dibattito su populismo e democrazia, in quanto il primo ritiene e proclama, per bocca dei suoi leader, di battersi per l'inveramento di un'autentica democrazia, mentre i teorici del modello democratico e i partiti politici non populisti sottolineano i rischi e i risvolti autoritari che il populismo, nelle sue teorizzazioni e nella sua prassi, rappresenta per le democrazie attuali. Nel contesto di una crisi globale e con le difficoltà dell'Europa unita a porsi come soggetto politico sovranazionale legittimato a ciò, la disaffezione verso la classe politica e le pratiche di governo da essa attuate cresce in quasi tutti i paesi europei, mettendo in causa prepotentemente i limiti e i difetti del modello rappresentativo e dando corpo e voce a un universo di protesta di larghi strati sociali, di disincanto, di ostilità verso il potere politico e le istituzioni che lo rappresentano. Buonasera professoressa Gentile, bentornata a Radio 24. Buonasera, grazie a voi. Con lei abbiamo già parlato più volte in passato di questo fenomeno del populismo e dei populismi. Nel suo libro le sostiene che di tale protesta e disagio sono interpreti e ascoltati in costante ascesa i vari partiti populisti o anche i movimenti che si rifanno all'idea di una democrazia diretta, riproponendo come attore e decisore primo il popolo sovrano, visto come entità pura e mitica. Allora, cerchiamo di contestualizzare il fenomeno del populismo e in particolare con l'occhio rivolto al caso francese, che è quello che lei esamina con maggiore precisione e attenzione. La cosa che mi ha spinto a continuare questa mia ricerca sui populismi è proprio il fatto che la presidenza Sarkozy, che poi io analizzo come caso di studio, è molto emblematica di ciò che costituisce poi la tesi del libro, perché nel caso di Sarkozy è appunto paradigmatico, ma lo è anche, lo è stato per il caso italiano durante il governo Bossi-Berlusconi, ossia in un contesto particolare di crisi della democrazia per i motivi che voi avete già illustrato nell'introduzione, l'assunzione da parte della classe politica di governo di tematiche populiste è sempre più frequente. Nel contesto francese, in cui l'ascesa del populismo di Le Pen è stata sempre crescente, Sarkozy, arrivato al potere, dopo qualche tempo attua una sorta di droitisation dell'UMP, del partito di cui lui è stato membro, e nelle sue politiche, a partire proprio da gesti e fatti precisi, non fa altro che istituzionalizzare appunto alcune delle proposte base di Le Pen, le rivernicia, diciamo le mette in doppio petto, rendendole più accettabili, e le fa diventare politiche di governo. Per esempio l'inasprimento delle misure contro gli immigrati, l'immigration choisie, che non è altro che la traduzione della mascherata, seppure non tanto, xenofobia di Le Pen. Quindi crisi della democrazia, crisi dei partiti tradizionali, che alimentano l'affermarsi di movimenti populisti un po' ovunque in Europa, con crisi e rischi per la tenuta del sistema democratico, perché questo va ribadito sia nell'esempio francese che ovunque un po' in Europa. Sì, sì, ma intanto i populismi che dilagano sono una sorta di fast cachet della democrazia, cioè l'altra faccia della democrazia, proprio perché nel momento in cui la democrazia ha disatteso le aspettative legittime che ha sempre creato, e proprio perché la democrazia si trova in forte sofferenza in vari contesti europei, ma non soltanto, pensiamo agli Stati Uniti e all'exploit del movimento di Sarah Palin, proprio per questo i populismi dilagano, ma nel contempo sono per l'appunto una minaccia costante, e questo lo prova non soltanto appunto il caso per esempio ungherese, che è molto, ecco, questo sì, paradigmatico in un contesto preciso, perché Orbán è al potere ed è il leader del partito populista che adesso è al governo, ma vale per tutti i paesi europei, proprio perché potrei dire con un paradosso: in ogni democratico in fondo si nasconde un pizzico di populista e in ogni populista un po' di democratico. I populisti si richiamano a una sovranità popolare diretta, senza mediazioni, riprendendo e riscovando il modello di democrazia diretta, nei casi più colti partendo da quello dell'antica Grecia, impraticabile in democrazie complesse. Non dimentichiamo che le poleis erano realtà di al massimo 2000 abitanti, quindi si potevano gestire con la democrazia dell'agorà. D'altro canto, i teorici della democrazia parlamentare, quelle realizzate, le liberal democrazie, per dirla con Dahl, in tutti i sistemi occidentali si richiamano appunto alle regole, alle complicate procedure che però garantiscono la democraticità del sistema rappresentativo. Ecco, ma a questo proposito c'è un passaggio interessante dell'analisi che lei conduce nel libro che riguarda il rapporto tra populismo e istituzioni, cioè come le istituzioni reagiscono nel confronto con tale soggetto politico. Questo mi sembra un elemento fondamentale per capire poi in che direzione il populismo o i populismi potranno andare nei prossimi anni. Le istituzioni sicuramente, rispetto all'impatto con questa frustata che è il populismo, hanno reazioni sicuramente diverse da paese a paese. Dico, per fare un esempio concreto che non è compreso se non proprio di sfuggita come tematica generale, perché poi gli avvenimenti sono posteriori, il libro sta appena uscendo, il caso della affermazione del Movimento 5 Stelle in Italia, da noi, è sicuramente non solo ha posto dei problemi perché ha spaccato in tre l'elettorato italiano, no? Ma perché, come le vicende di questi giorni che cadono sotto gli occhi di tutti ci dicono, questo ha creato un problema, come dire, non dico invalicabile, ma un impasse proprio a livello istituzionale: la formazione di un governo, la disciplina di tutte le procedure per la formazione delle Camere, cioè tutto quello che attiene alla messa in atto dei meccanismi che devono far funzionare le istituzioni. Sì. E non a caso, in questo caso Grillo è stato in questi giorni in qualche modo arbitro col suo diniego per qualunque forma di dialogo, di collaborazione. Questo sicuramente, non dico che blocchi le istituzioni, per carità, però le mette in difficoltà, proprio perché fra l'altro, come in uno specchio, riflette questo paradosso, cioè le istituzioni democratiche proclamano di realizzare o di voler realizzare la sovranità del popolo che sceglie i suoi rappresentanti. Dall'altra parte si dice no, il popolo è sovrano solo se direttamente esso governa, cosa contraria a qualunque, non solo teoria della democrazia, ma anche a qualunque prassi. Voglio dire, basti pensare a Schumpeter, che per primo negli anni 40 dice: no, signori miei, la democrazia non è il governo del popolo, è il governo dell'uomo politico. Cioè, la democrazia serve solo perché il popolo cosiddetto sovrano sceglie chi deciderà per lui. Certo, sceglie i suoi rappresentanti. Quindi la democrazia è una fucina per costruire dei leader. E nel caso del grande teorico Schumpeter, lui poneva delle condizioni precise perché la scelta avvenisse in una competizione di alto profilo con determinate garanzie, eccetera. Professoressa, molte grazie, buona serata. Arrivederci. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato all'incontro tra J.P. Morgan e Thomas Edison. Siamo alle soglie del XX secolo. Gli Stati Uniti sono il paese che si è sviluppato più in fretta nel mondo. L'inventore Thomas Edison sta mettendo a punto una nuova tecnologia. Il banchiere J.P. Morgan ne intuisce subito il potenziale. Insieme porteranno la luce elettrica nelle case di New York. Come il fuoco o la ruota, la luce elettrica presto trasformerà l'esistenza dell'uomo. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 8 aprile alle 22 su History Channel. Junius Morgan è il fondatore di una delle prime banche moderne di investimento del mondo. Un impero finanziario che verrà chiamato la dinastia dei Morgan. H.W. Brands, storico. J.P. Morgan era nato e cresciuto in mezzo alle attività bancarie. Suo padre faceva parte di una delle prime generazioni di banchieri d'oltreoceano e di conseguenza vedeva la finanza come l'industria che avrebbe preso il sopravvento su tutte le altre industrie. Appena impara a contare, a J.P. viene insegnato che c'è solo un modo di fare affari, quello dei Morgan. Investendo i soldi degli altri per fare la propria fortuna. Jennifer Tonkovic, Biblioteca e Museo Morgan. Il padre di Morgan era una presenza dominante. Junius, in un certo qual modo, tenne sotto controllo suo figlio Pierpont per moltissimi anni. Era una cosa difficile da sopportare. La relazione forzata tra J.P. Morgan e suo padre continua. Ma all'età di 40 anni, Pierpont cerca di crearsi una propria identità. H.W. Brands, storico. J.P. Morgan capì il gioco. E a un certo punto della vita comprese che se suo padre aveva raggiunto il successo, lui avrebbe ottenuto risultati migliori. Il padre di Morgan gli ha sempre insegnato a evitare i grossi rischi. Ma J.P. Morgan ormai è stanco di fare le cose alla maniera di suo padre. Non vuole semplicemente acquistare aziende, ma costruirle da zero e farle crescere. Ma per riuscirci, J.P. Morgan deve trovare un'idea innovativa da fare sua. Punta gli occhi su uno degli inventori più noti e stimati al mondo. Thomas Edison. Edison è conosciuto come un innovatore fin dall'età di 19 anni. Prima si è fatto un nome perfezionando il telegrafo, poi inventando la cosiddetta teleborsa e il fonografo. Nel corso della sua vita, Thomas Edison ha depositato più di 1000 brevetti. Ma ora, a 31 anni, sta per realizzare una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi. Un'invenzione attira l'interesse di Morgan, la lampadina e l'elettricità che la alimenta. Chiede a Edison di installare la luce elettrica nella sua casa, sulla Quinta Avenue, a New York. Mark Caban, proprietario dei Dallas Mavericks. A volte devi assumerti delle responsabilità. Devi, come dicono alcuni, mangiare il cibo del tuo cane. Se non sei disposto a usare il tuo prodotto, come potranno gli altri averne fiducia? E non si tratta di fare lo showman, ma di dimostrare che credi nel tuo prodotto. Qualsiasi azienda intelligente dovrebbe farlo. La casa di J.P. Morgan si trasforma rapidamente in un laboratorio per i famosi esperimenti elettrici di Thomas Edison. Edison installa una piccola centrale elettrica in un capanno nella proprietà di Morgan. Poi fa passare 1200 metri di fili attraverso le pareti e i soffitti. E collega tra loro quasi 400 lampadine elettriche. Sono le prime che siano mai state costruite. Dopo mesi di prove ed errori, la casa è pronta per essere mostrata. Morgan invita molte persone, incluso suo padre, ad ammirare per la prima volta la meraviglia della luce elettrica. Sapendo che quella dimostrazione porterà Edison alla ribalta di una nuova industria. Jill Jones, storica. L'elettricità fu vista come qualcosa di miracoloso. La gente era stupefatta. Innanzitutto non riuscivano a capire come funzionasse, perché l'elettricità non si vede. Per questo molti la considerarono come qualcosa di magico. La casa di J.P. Morgan a New York è la prima residenza privata al mondo ad essere illuminata con l'elettricità. L'elettricità diviene subito un must per l'elite del paese, con una illustre eccezione, John D. Rockefeller. Rockefeller ha creato il più grande patrimonio economico d'America raffinando il petrolio per le lampade a cherosene. E capisce che la luce elettrica ha il potenziale di sostituire il cherosene come prima fonte di luce in America. Se la nuova invenzione prevarrà, Rockefeller dovrà affrontare la sfida più grande della sua vita. Dopo il successo della dimostrazione a casa sua, J.P. Morgan crede che l'elettricità sia l'opportunità che stava aspettando da tempo. L'occasione di controllare una nuova attività, fin dall'inizio. E di diventare un pioniere. Tuttavia, investendo su Edison, Morgan va contro tutto ciò che suo padre gli ha sempre insegnato. Donny Deutsch, magnate della pubblicità. Devi assumerti i rischi. Non avrai mai successo in niente se non corri dei pericoli, altrimenti sarebbe troppo facile. Se non c'è il pericolo di fallire clamorosamente, di perdere tutto o di incontrare qualche intoppo, non c'è il successo. A dispetto dei consigli paterni, investe tutto il patrimonio nell'elettricità. Morgan dà a Edison il corrispettivo odierno di 22 milioni di dollari e insieme fondano una nuova azienda, la Edison Electric Light Company. Finanziare Edison è un rischio enorme per Morgan, che va contro quello che suo padre gli ha insegnato. Per anni, a Morgan viene consigliato di evitare investimenti in industrie nuove e non collaudate. Ma quello che per suo padre è un rischio, per J.P. Morgan è una grande opportunità. Steve Case, cofondatore di AOL. La cosa fantastica delle invenzioni veramente innovative e delle idee imprenditoriali, che alla fine finiscono per avere un impatto significativo, è che cominciano in sordina, tanto che la maggior parte della gente non capisce nemmeno di che stai parlando. Perciò ci vuole un po' di tempo prima che vengano riconosciute. Alla fine però sfondano e l'impatto è molto più ampio di quanto si possa immaginare. Morgan ed Edison si mettono subito al lavoro e trasformano un grande edificio a Lower Manhattan nella prima centrale elettrica del mondo. Una meraviglia tecnologica piena di enormi generatori, capaci di illuminare migliaia di case. Jill Jones, storica. L'idea era che la centrale di Lower Manhattan producesse corrente continua, ma questo voleva dire che doveva essere trasmessa. Maury Klein, storico dell'economia. Il futuro dell'elettricità non era l'illuminazione, era la potenza. E la potenza aveva bisogno di essere trasmessa a lunga distanza. Gli operai di Edison lavorano anche di notte, scavando una rete di canali lunga più di 24 chilometri. Posano a terra oltre 30.000 metri di spesso filo di rame, collegando la centrale elettrica di Edison a centinaia di case e aziende di New York. La rete elettrica di Edison diventa il modello per come trasmettere l'elettricità negli Stati Uniti. Jill Jones, storica. Non aveva mai lavorato così a lungo e così tanto a una nuova invenzione per renderla perfettamente funzionante come fece con l'elettricità. Con la centrale elettrica di Edison in funzione, sorge una nuova era. La città si illumina per la prima volta e in poco tempo la rete elettrica di Edison copre metà Manhattan. La luce elettrica delimita le strade e in tutte le case di New York ormai ronza l'elettricità. J.P. Morgan e Thomas Edison stanno per fare fortuna, ma il loro successo è una pessima notizia per l'uomo più potente del paese. Fino ad ora, John D. Rockefeller con il kerosene ha fornito la luce a tutte le case del paese, monopolizzando questo settore. Ma quando la rete elettrica di Edison si espande in un'area sempre più vasta, capisce che il suo grande impero del kerosene è a rischio. Ogni casa in cui Edison porta l'elettricità è un cliente perso per John D. Rockefeller. Stephen Watts, storico. I giganti dell'economia della fine dell'Ottocento, come John Rockefeller, tendevano a essere spietati. La sola cosa che interessava loro era dominare i rapporti economici e facevano qualunque cosa pur di ottenere una fetta di mercato grande abbastanza da assicurarsi dei profitti. John D. Rockefeller lancia una feroce campagna diffamatoria contro l'elettricità, dipingendola come estremamente pericolosa, perfino mortale. Riferisce di morti per folgorazione e di incendi incontrollati. Sa che se riesce a spaventare l'opinione pubblica, il kerosene continuerà ad essere la principale fonte di luce. Tuttavia, John D. Rockefeller sta per diventare l'ultimo dei problemi di Morgan. Spunta dal nulla un nuovo avversario. Edison ignora che la minaccia più grande e più pericolosa ai suoi progetti con l'elettricità viene proprio dal suo laboratorio di ricerca. È il suo assistente, Nikola Tesla. Jill Jones, storica. Tesla fin da ragazzo aveva una grande passione per l'elettricità. E quando incontrò Thomas Edison, da principio lo adorò. Nikola Tesla ha sviluppato una nuova forma di elettricità chiamata corrente alternata, o AC. Ma Edison è convinto che l'alto voltaggio della corrente alternata sia più pericoloso della corrente continua di cui lui è il pioniere. Jill Jones, storica. Io credo che Edison vedesse Tesla come un giovane impiegato. Non dimentichiamoci che Edison era già famoso in tutto il mondo e Tesla era solo uno dei tanti ragazzi brillanti che lavoravano per lui. Ora che è libero di portare avanti le sue idee, Tesla comincia a cercare un investitore che finanzi la corrente alternata. Trova un inventore diventato uomo d'affari che si chiama George Westinghouse. Morgan ed Edison hanno illuminato New York, ma Westinghouse e Tesla credono che la corrente alternata, che è più potente, possa fare di meglio. E hanno intenzione di dimostrarlo. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Gli uomini che fecero l'America, un nuovo potere. Regia di Patrick Reams, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 8 aprile alle 22 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.